24 mattino. Sono le 7:16 minuti, un buongiorno a tutti da Gigi Donelli, questa mattina al microfono, da Peter Bescapè in regia. Questa mattina facciamo un vero e proprio viaggio, almeno nelle prime due ore, attraverso naturalmente gli appuntamenti del giornale radio. Diciamo in sintesi, da Cortina all'Himalaya, dove andiamo a raggiungere un amico di Radio 24 che, come dire, ormai ci ha abituato a realizzare delle spedizioni, delle sfide straordinarie, e speriamo di raggiungerlo proprio su una delle montagne più impressionanti e complesse del mondo tra circa un'ora, ma anche tra sviluppo e crescita, problemi dell'occupazione e lavoro femminile. Parleremo oggi di dimissioni in bianco a partire dalle 8:30. Il governo, l'avrete sentito, ha promesso di intervenire presto sulla pratica delle cosiddette dimissioni in bianco, cioè quegli accordi per cui accordi basati appunto sulla forza da una parte e la debolezza dall'altra, che rendono così difficile e complesso il panorama della lavoro per le donne ancora oggi nel appunto 2012 appena nato. Parleremo con chi ci racconta i casi, con chi ci aiuterà a capire appunto un fenomeno. Ieri si parlava di 800.000 casi, cioè numeri davvero impressionanti, personalmente li ho trovati stupefacenti, ma insomma parleremo di questo anche naturalmente. Però come sempre a quest'ora partiamo dalla rassegna stampa. Cortina oggi è dappertutto, cari ascoltatori, i titoli appunto abbondano. Da Cortina al Blitz svela poveri su auto di lusso e scontrini fantasma, ai finti poveri di Cortina e ai veri disperati della Fincantieri di Genova. Insomma, Cortina domina la scena, naturalmente in questo caso suo malgrado, per la nota vicenda appunto dei controlli compiuti dall'Agenzia delle Entrate il 30 dicembre scorso. Ma allora andiamo con ordine, partiamo dunque da Cortina al Blitz svela poveri su auto di lusso e scontrini fantasmi, per la stampa di Torino oggi in edicolo con un numero grosso in bella vista: 400% l'aumento degli incassi nei negozi, 251 invece il numero delle vetture di lusso controllate. Il commento questa mattina non può che richiamare a firma di Gramellini il cinepanettone, di cui abbiamo parlato parecchio in questi tempi, se il cinepanettone diventa realtà. Ecco, Cortina è anche sul Sole 24 Ore, che apre questa mattina e racconta la vicenda degli 007 nei ristoranti dove volano gli incassi, e naturalmente il corollario di polemiche sul blitz di Capodanno. Cortina la incontreremo di fatto ovunque, ma per il Sole oggi c'è una notizia d'apertura che riguarda il sistema bancario, riguarda Unicredit, ricapitalizza con uno sconto record, l'aumento di 7,5 miliardi, il terzo di sempre in Italia dal 9 gennaio. Ecco, il titolo perde il 14% e trascina al ribasso Piazza Affari. Una intervista richiamata ovviamente in prima pagina all'amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni dice: saremo tra i leader in Europa, ora fondi ad aziende e famiglie. Una vicenda complessa e importante, che il Sole 24 Ore poi spiega nelle pagine interne. E vi anticipo solo uno dei titoli: di fatto è la più grande nella storia del credito di Piazza Affari e insomma quella che, come spiega Fabio Pavesi, chi non segue le cronache di borsa, potrà apparire una delle tante operazioni che avvengono pressoché quotidianamente sul mercato, ma non è affatto così, è un'operazione diversa, un'operazione molto importante di cui torneremo appunto a parlare più avanti. Dicevamo, i finti poveri di Cortina, i veri disperati della Fincantieri di Genova. Questa è la scelta di oggi del Secolo XIX, che confronta e mette uno di fronte all'altro anche nei commenti sull'Italia dei furbi che non ci piace, ma cura di Giuseppe e Berta, e appunto quella invece di chi in queste giornate occupa, in questo caso l'aeroporto di Genova, ieri gli operai di Fincantieri, ma insomma si preoccupa soprattutto a ragion veduta dell'occupazione e della propria appunto stabilità familiare. Per il Corriere, l'Italia sfida l'Europa, sfida europea sul debito, la linea di Monti, Berlino, vincoli stretti o niente soldi. Ecco qui la campagna europea di fatto di gennaio viene titolata diversamente insomma sui quotidiani, il concetto è la missione Europa per Mario Monti. Gli italiani hanno accettato le misure pesanti imposte dalla crisi, il paese ha fatto il suo dovere, adesso l'Europa non ha più alcun motivo di avere paura dell'Italia. Questa è la linea del governo di Mario Monti, che domani vedrà Sarkozy a Parigi e mercoledì a Berlino avrà un incontro bilaterale con Angela Merkel. Questa linea espressa nella lunga intervista al quotidiano francese Le Figaro, in cui Mario Monti parla a tutto campo naturalmente dell'Europa, dei rapporti con Berlusconi, insomma un'intervista molto ampia rilasciata al quotidiano francese. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera c'è anche la corsa all'anti-Obama, come viene definito. Chi sarà appunto lo sfidante del presidente degli Stati Uniti? Romney vince per 8 voti, ma la vera sorpresa è Santorum, i repubblicani spaccati negli Stati Uniti, nell'Iowa. Mitt Romney, che sul Corriere oggi appunto è rappresentato in una fotografia mentre abbraccia la moglie, vince di un soffio, 8 punti, 8 voti, pensate, sulla sorpresa Rick Santorum, ma senza convincere i repubblicani di essere l'uomo giusto per la scalata alla Casa Bianca. Per Repubblica i temi del lavoro di cui vi ho accennato, la CGIL è pronti a trattare sul lavoro, primo incontro con la Fornero, ma Camusso chiarisce, l'articolo 18 non si discute. E poi a centropagina una bellissima fotografia del campanile Ampezzano, Cortina, il miracolo della finanza con il blitz, 400% di scontrini in più. Insomma, oggi l'ironia su Cortina si spreca, c'è poi da pensare quanti luoghi, quante circostanze, in fondo sostituendo quel nome con un altro si potrebbe rinnovare lo stesso quadro. Ecco, ben più drammatico il tema dell'apertura invece del Messaggero, quotidiano di Roma. Roma, uccisi padre e figlia, reagisce a una tentata rapina, colpito a morte con la bambina di 9 mesi, finisce in tragedia l'aggressione a una famiglia di commercianti cinesi a Torpignattara, un uomo e sua figlia di appena 9 mesi sono stati uccisi ieri sera durante una rapina al Pigneto, periferia orientale della capitale, ferita anche la madre della bambina, colpita a un braccio. Le due vittime, tutti di nazionalità cinese, stavano camminando in strada quando si sono avvicinati gli aggressori che volevano rapinarli. L'uomo, che aveva una valigetta in mano, avrebbe opposto resistenza causando la reazione violenta degli aggressori. Il cinese è stato colpito all'addome, mentre la bambina che portava in braccio è stata ferita mortalmente da un proiettile diretto alla fronte. Questa è l'apertura per il Messaggero, mentre il Giornale ci dice quanti poveri in Mercedes, a Cortina raduno di furbetti. Intanto il governo abbassa le tasse, dice il Giornale di Alessandro Sallusti, ma solamente agli immigrati. Ieri l'Agenzia delle Entrate ha reso noti con tempestività i risultati del suo blitz di Capodanno, scrive Nicola Porro, il blitz naturalmente a Cortina. Ha individuato 42 persone alla guida di auto di lusso con redditi bassi. Inoltre ha rilevato come alcuni esercizi commerciali abbiano fatto proprio nel giorno dei controlli un boom di fatturato. Scrive Porro, attenzione, bisogna fare molta attenzione nel valutare lo scenografico blitz di Cortina. La ricchezza non è ancora un peccato dalle nostre parti. Avere un'auto di lusso, dice, non vuol dire assolutamente nulla, anche a reddito zero. In Italia non avere reddito non vuol dire non avere patrimonio. Le rendite finanziarie sono tassate separatamente dalla dichiarazione fiscale. Insomma, dice Porro, questo dato in sé va preso per quello che è, insomma, che non va sopravvalutato. Prosegue però e dice: diverso il discorso del boom sugli scontrini dei 35 commercianti, la crescita del fatturato rispetto al giorno prima è un chiaro indicatore del fatto che qualcuno ha fatto il furbetto, ma anche in questo caso, dice Porro, scrive Porro sul giornale, il blitz è servito a poco, l'agenzia non ci comunica i verbali che ha fatto, probabilmente sono pochi proprio perché gli evasori sono stati messi in guardia dagli 80 agenti dispiegati. Insomma, punti di vista naturalmente sono numerosi su questa vicenda, su questa vicenda che in qualche modo segna, almeno fino adesso, il passaggio dell'anno. Naturalmente c'è tutto un lato quasi simbolico, dimostrativo, spettacolare, il punto e naturalmente su questo punto c'è una grande divisione, e se questo sia una sorta di messaggio, invito, indebita pressione, ecco, su questo si aprono le divisioni, ma evidentemente non sul fatto che l'iniziativa ha creato grande scalpore. Sempre dal giornale un'anticipazione invece di un reportage: sono entrato a casa Gheddafi, ecco cosa ho visto. Gian Michele Sin porta i lettori nell'ultimo covo del colonnello. Avvenire, lavoro, il tavolo decisivo, subito da salvare 30.000 posti, altri 300.000 da tutelare e molti che vanno costruiti. Sono 191 le vertenze aperte. Il ministro Fornero incontra la leader CGIL, Passera convoca Fincantieri, di cui appunto poco fa sul quotidiano genovese, dopo il blocco dell'aeroporto di Genova. Poi Stati Uniti, Monti e l'Europa, e in taglio basso Avvenire ritorna sul tema del gioco d'azzardo, giochi sì a fermare gli spot. Dopo la denuncia del cardinale Bagnasco, quella in cui ha detto il gioco d'azzardo come una droga, parla il GIP di Cremona Guido Salvini, secondo cui è inaccettabile che Stato e criminalità traggano benefici da questa forma di dipendenza. Un tema che appunto qui abbiamo affrontato nei giorni scorsi, ed è un cantiere, francamente, un tema su cui riflettere molto attentamente, anche perché è evidente l'esplosione di questa comunicazione, di questi meccanismi intorno al gioco d'azzardo. Per il Riformista invece l'apertura è sulla legge elettorale. Porcellum addio, patto tra i partiti, c'è la convinzione che la Consulta boccerà il referendum. Ho parlato con tutti, confida Franceschini. L'accordo prevede una divisione dei lavori tra Camera e Senato. Quanto al sistema, c'è interesse per quello ungherese, un Mattarellum corretto che non piace a Casini. Insomma, riforma della legge elettorale in apertura oggi sul Riformista. Miracolo a Cortina invece per l'Unità, ma anche un richiamo sul tema che in particolare l'Unità e altre testate stanno seguendo da parecchi giorni, è quello della difesa, della riforma della difesa, dei costi, e lo spunto spesso è legato all'acquisto dei caccia, agli ordini italiani per i caccia bombardieri. In prima pagina richiamo un'intervista al generale Camporini, già capo di Stato Maggiore Difesa, dice: tagliando si può anche migliorare. E identico miracolo a Cortina per il Giorno, ma anche benzina la tassa di troppo, proteste per l'effetto accise. Il lavoro è finito è invece il titolo del Manifesto questa mattina in edicola, e la vicenda è quella di Fincantieri. Gli operai di Fincantieri occupano l'aeroporto di Genova, blocchi stradali a Palermo, contestate anche Cisle Will al petrolchimico di Priolo in Sicilia, 3 giorni di sciopero contro il rischio di 1400 esuberi, mentre il governo riparte all'attacco dell'articolo 18. Libero, sfidiamo Monti, taglia la casta, se vuole il premier può sconfiggere la rivolta dei parlamentari e sforbiciare i loro lussi subito, basta ridurre i soldi che il tesoro gira al palazzo, dipende solo da lui e risparmieremmo 1,3 miliardi di euro. A centropagina il tema delle tasse per il permesso di soggiorno e l'immigrazione, e agli immigrati tolgono le tasse. La tassa di soggiorno può piacere o meno, può essere condivisa o meno, scrive Gianluigi Paragone oggi in prima pagina, può essere considerato uno strumento di lotta, eccetera, eccetera, oppure una clava da dare in testa agli stranieri. Infatti centrodestra e centrosinistra sul tema dell'immigrazione si confrontano da tempo con ricette divergenti, e da lì appunto la riflessione e il titolo, che vi ricordo, è "Agli immigrati tolgono le tasse". La Padania, liberalizziamo la Padania. La politica oppressiva delle tasse sulle famiglie e le imprese non crea nuova occupazione. Caro Premier, lasci lavorare in santa pace il Nord, faccia fare il suo corso al federalismo. Il Fatto Quotidiano: si può scovare e punire i ricchi evasori. Ancora Cortina, in basso, nel taglio basso, questa, diciamo, titolo doppio a cui il Fatto Quotidiano ricorre in maniera piuttosto sistematica: si deve rinunciare ai 131 aerei da guerra, e qui appunto i cacciabombardieri di cui abbiamo parlato un momento fa. 24 mattino. Premier italiano con gli europei, europeo con gli italiani. Così questa mattina Stefano Folli, naturalmente sul Sole 24 Ore, l'Italia e l'Europa, dunque due livelli destinati a intrecciarsi sempre più, anche se pongono problemi diversi e sollecitano risposte specifiche. Nelle prossime settimane l'abilità del Presidente del Consiglio sarà appunto quella di parlare da italiano con gli europei e da europeo con gli italiani. E del resto la strategia del Premier, che appunto può essere colta nell'intervista al Figaro, è preliminare ai colloqui di domani in Francia con Sarkozy. Poi sarà la volta di Angela Merkel a Berlino, e nel frattempo Monti avrà sciolto in un modo o nell'altro, con l'accordo o con la rottura, il nodo del rapporto con il sindacato sulle questioni del lavoro, in particolare con la CGIL. Come sappiamo, non è la prima volta che Monti da Presidente del Consiglio vede i leader di Germania e Francia. L'altra volta, tuttavia, il governo era appena nato, c'erano le buone intenzioni, le promesse di serietà, ma il lavoro era tutto da fare. Questa volta il Premier si presenta avendo, come si dice, messo in sicurezza i conti pubblici. Insomma, un passaggio in questo mese che, lo abbiamo ricordato molte volte, sono incontri bilaterali, trilaterali, poi il 23 l'Eurogruppo, alla fine del mese il vertice europeo, in cui insomma ci si aspetta una posizione, un piglio decisamente italiano in Europa, in modo anche da colmare quella sentimento di distanza, peraltro condiviso di fatto da, questa è una frase che potremmo associare alla maggior parte dei primi ministri europei, rispetto appunto al momento in cui i primi ministri, poi i presidenti, si riuniscono a livello di vertice europeo. Ma insomma, scrive Stefano Folli, il cuore dell'intervista, e si riferisce a quella naturalmente di appunto del primo ministro Monti al Figaro, è là dove Monti reclama considerazione per questa nuova Italia che gli rappresenta. Occorre più coraggio e più integrazione lungo un percorso che Germania e Francia non possono compiere da soli, agendo anche in nome degli altri paesi. E poi c'è appunto il fronte interno. Sindacati, tra loro in primo luogo la CGIL, devono decidere se partecipare allo sforzo di ricostruzione del paese che è nato, oppure se ritagliarsi un ruolo di oppositori sociali che potrebbe anche condannarli all'irrilevanza. È un rischio che incombe in misura particolare sulla CGIL. Non c'è dubbio che Monti vorrebbe un'intesa con la Camusso, proprio in nome dell'Europa e della battaglia in atto, però gli accordi si fanno in due e la CGIL non riesce finora a voltare pagina. A proposito appunto di questo ovviamente dossier centrale, ecco qua Repubblica, ve l'avevo letta, la CGIL pronti a trattare sul lavoro, e proprio a pagina 2 parla il segretario della CGIL che dice siamo pronti a siglare un nuovo patto, ma sui licenziamenti non si negozia. Allora che l'intervista è di Roberto Mania, dice: dopo le polemiche di questi giorni tra CGIL e governo, ha infine incontrato il ministro Fornero. Cosa vi siete detto? Era un incontro fissato prima della pausa, dice il segretario, prima di avviare un confronto complesso come come quello sul mercato del lavoro e gli ammortizzatori sociali, andavano chiarite le modalità con le quali proseguire e fissare l'agenda. La CGIL ha sempre detto che non riteneva utile percorrere la strada degli incontri separati, ora sappiamo che sarà un confronto ordinario. Dunque ci sarà un tavolo unico, esatto. D'altra parte, prosegue Camusso, era stato lo stesso presidente del Consiglio Monti a dire al Senato che sul mercato del lavoro il governo avrebbe cercato il consenso delle parti sociali. L'articolo 18 fuori dalla trattativa, poi per voi resta un tabù, lasciamo perdere totem e tabù. L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ha una funzione deterrente per i licenziamenti senza giusta causa. Per questo, dice Susanna Camusso, non può né essere aggirato né modificato. Ecco, direi che questo è una buona sintesi, insomma, dei fatti, ovviamente dei fatti correnti su questo tema. Il percorso di fatto si è appena aperto. Cortina, dunque, abbiamo ampiamente citato, il fisco fa bene agli incassi, in questo caso è il Sole 24 Ore che ricorda in una tabella i risultati dell'operazione con più 300, più 40, più 400 auto di lusso, ormai stiamo, come dire, memorizzando rapidamente, ma vi segnalo dalle pagine interne un'intervista a Luigi Magistro, che è direttore accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Il clamore sui controlli, dice Magistro, non ha molta ragion d'essere, anche se possono avere un buon effetto deterrente, si tratta di routine. A proposito, come dire, della spettacolarità della scelta del momento e così via, ma probabilmente non è il fatto stesso che ne stiamo parlando così ampiamente, forse qualcosa significa, ma insomma, i dati sugli aumenti degli scontrini e ricevute come sono stati rilevati, chiede il collega Saverio Fossati a Magistro, semplicemente dal registratore di cassa, i dati sono giornalieri, quindi è facile risalire al giorno scelto e fare un confronto, ma perché proprio lì è quel giorno? Il problema è che i corrispettivi non erano adeguati, ma in posti come Cortina la rilevanza è particolare, siamo nell'ambito delle iniziative periodiche per le attività stagionali, è chiaro che il controllo si concentra nei momenti più fruttuosi. Ecco, come dire, anche una risposta alle domande sul perché. Non tutti, come abbiamo detto, sono d'accordo. Tra chi appunto si esprime, chi si è espresso già ieri, oggi ribadisce la posizione sull'azione appunto degli ispettori, vi segnalo pagina 2 del secolo XIX un'intervista all'ex ministro Gelmini che chiede perché proprio a Capodanno, insomma la risposta dell'agenzia l'abbiamo sentita. Maria Stella Gelmini dice: è chiaro che chi ha sbagliato deve pagare, ma forse questi controlli si potevano fare in un altro momento. La crisi colpisce tutte, le aziende sono in difficoltà, si tratta di agire con equilibrio, tutto qua. Fate fare i controlli mentre l'albergatore ha l'albergo pieno, significa costringerlo a stare dietro al fisco anziché ai clienti, così lo si colpisce due volte. Sono convinta che l'Agenzia per le Entrate non abbia voluto operare in maniera discriminatoria, ma i comportamenti non solo devono essere inappuntabili, ma non devono nemmeno essere sembrare ispirati da una logica di lotta di classe. Si tratta di agire nella tutela dell'attività economica, che è un valore da preservare. E a questo proposito, il fisco prepara altri colpi nelle stazioni sciistiche, VIP, è un articolo che accompagna poi l'intervista all'ex ministro della pubblica istruzione e qui insomma si insiste sull'elemento di modello, di avvertimento, chiamiamolo come ci pare, anche se magari la parola rischia di suonare un po' brutale, però insomma se c'è un cambiamento di certi meccanismi, beh insomma Cortina è chiaramente un luogo simbolo, ma non è solo, e quindi dal prossimo weekend ci si aspetta fino a Pasqua controlli da Courmayeur come a Madonna di Campiglio, in Alta Badia come a Bardonecchia a Olivigno, e scrive in questo caso il collega Bonazzi sul Secolo decimonono, non sarà igienico andare a fare appunto andare in montagna con il SUVone o la berlina tedesca da 70.000 euro intestata all'azienda, a fare il pieno con le schede carburante di sabato sera, svaligiare il negozio di Hermès con la carta di credito, specie se poi la propria dichiarazione dei redditi è in linea con quella di un operaio della Pirelli. E la specialità alpina nella quale si eccelle è sì lo slalom, ma quello tra le tasse nello studio del commercialista. Ecco qua, insomma. Grazie dunque per gli aggiornamenti, naturalmente continuiamo con la nostra regolare scansione degli appuntamenti sulla viabilità, quindi ogni mezz'ora e oltre a qualsiasi momento laddove fosse necessario. Sono giornate per molti di vacanze e quindi... come dire, vale sempre la pena tenere particolarmente sotto attenzione la situazione, l'andamento dei percorsi stradali e ferroviari, ma abbiamo detto di cambiare pagina e tornerei sul Messaggero. Insomma, la tragedia, la tragica aggressione a una famiglia di commercianti cinesi, come vi ho detto, è l'apertura del Messaggero, un quotidiano ovviamente che un quotidiano romano che insiste su una sequenza davvero impressionante di violenze che stanno colpendo la capitale. Tra l'altro accompagnato l'articolo di spalla è un'altra vicenda, ma parla di Ostia, un altro stupro nella pineta degli orrori, vi leggo qualche riga. Dice: un piccolo albero di Natale su un carrello della spesa che affonda nel fango e fili dorati a decorare la vergogna, rifiuti anche quelli come tutto il resto, ma nelle baracche della pineta dell'acqua rossa di Ostia è di scarti che si vive, di tutto ciò che per altri ormai niente. Ha due vani, la casupola più grande, il tinello e la camera da letto. Anna è stata spinta lì l'altra notte, violentata da tre romeni. Urlava, ma Radim, l'amico cieco che era con lei, non poteva aiutarla. L'avevano picchiato a sangue e gettato nel fosso. La badante polacca di 33 anni conosceva un po' quelle belve, a volte dormiva in una baracca a 50 metri dal fidanzato. Belve dunque, come erano belve e così le avrebbe descritta ai soccorritori appunto la donna cinese che ha visto uccidere marito e figlia nella sparatoria, nell'aggressione appunto al Pigneto. Erano belve, ha detto ai soccorritori, e la sparatoria è avvenuta nell'angolo con via Tempesta di fronte a Piazza dei Geografi. Due aggressori vestiti di nero con i caschi in testa sono poi fuggiti a piedi per le strade della zona. Immediati scattati i soccorsi sul posto, sono arrivate le forze dell'ordine, ma per l'uomo e per sua figlia era troppo tardi. La coppia era sposata da 2 anni e mezzo. Insomma, una vicenda terribile che oggi conquista suo malgrado la prima pagina del Messaggero. Ma andiamo all'estero. Gheddafi, l'ultimo covo del colonnello, raccontato oggi da Gianmica Lessin, uno spaccato molto interessante sull'altra faccia, insomma, di questa guerra. E come spesso accade, insomma, se è vero che la storia la scrivono i vincitori, spesso la cronaca è raccontata dagli uffici stampa o comunicazione, soprattutto in questi tempi di eserciti e meccanismi molto ben oliati. Michael Essin va a cercare invece i perdenti, e li va a cercare nel luogo, nella città di Sirte, dove si è consumato le ultime 24 ore del colonnello Gheddafi. Se venite per scrivere la verità siete benvenuti, dicono appunto un gruppo di operai ex soldati che fermano il giornalista mentre entra in una costruzione semidistrutta in fase di ricostruzione, e sono appunto quelli che venivano definiti fedelissimi Gheddafi. Uno di loro, cazzuola in mano, si chiama Mabruk, dice: non sapevamo in realtà che appunto che Gheddafi fosse qui, e ti prego di non mettermi nei guai adesso, quelli di Misurata mi hanno già sbattuto in galera e torturato. Quelli di Misurata, come dire, nota, è una chiara allusione al CNT, insomma, ai vincitori. Noi difendevamo solo le nostre case. Era mercoledì mattina, racconto, il giorno prima che lo uccidessero. Avevamo mandato via moglie e bambini, combattevamo da più di una settimana. Quel pomeriggio, durante una pausa dei combattimenti, ci chiamano tutti fuori. Io e i miei uomini saliamo verso questo slargo e lì in fondo riconosco Mutassim, il figlio del leader Gheddafi. Fratelli, ci dice, domani dobbiamo andarcene, abbandonare il quartiere, la città, qui ormai è finita, la NATO sa dove siamo. Mio padre vuole andare a Wali Jarre, attendere il proprio destino nel villaggio dove è nato. Chi vuole può unirsi a noi. Sulle prime non capiamo, restiamo perplessi e confusi. Abbiamo tanti feriti, molti non riescono nemmeno a camminare. Ecco, Gheddafi dunque annuncia la sua partenza e la parte di quei suoi fedelissimi, che poi in realtà si sono trovati fedelissimi un po' per caso o che comunque sono radicati nel quartiere dove il leader si è rifugiato, decidono di restare. Raccontano, tutte le case del quartiere erano collegate dai passaggi, se bombardavano passavamo da un'abitazione all'altra senza mettere fuori il naso. Anche il Raisa ha cambiato parecchio i nascondigli, ma questo è stato l'ultimo. Quella sera siamo arrivati dalla piazza seguendo Mutassim, attraversando muro dopo muro, giardino dopo giardino, mezzo quartiere. Quando mi sono affacciato non credevo ai miei occhi. Muammar Gheddafi era in mezzo al giardino con un Kalashnikov a tracolla, la sua pistola d'oro in una mano ed un block notes nell'altra. Prendeva appunti e dava ordini sottovoce alle sue guardie. Ha alzato gli occhi, ci ha salutato. Domani andiamo via, ha ripetuto. Se volete seguirci siete i benvenuti. Ecco, e le ultime ore. Il Rais ha preso un block notice quella mattina, ha numerato con della vernice tutte le vetture, dall'1 al 21, ma nessuno ha capito veramente perché. Subito dopo ha tentato la prima sortita verso est. Dopo pochi minuti sono tornati, il fuoco era troppo pesante, allora le abbiamo scortate all'uscita opposta del quartiere. Quando l'ho visto partire per Wadi Jarre, per il villaggio dove è nato, ho capito tutto, cercava un posto dove morire, non poteva vivere fuori dal suo paese, per questo era il nostro leader. Ma alla fine una parola, quando scriverai questa storia, dice appunto il testimone al collega Michele Sin, quando scriverai questa storia torneranno a prenderci, ci tortureranno di nuovo. Se tra qualche giorno vedete il mio cellulare, il mio numero di telefono sul vostro cellulare, vi prego venite a cercarci, altrimenti uccideranno anche noi. Ecco la voce dei perdenti, degli sconfitti in questo racconto che oggi trovate sul giornale. Altra storia, altra vicenda in retroscena. Abbiamo parlato in queste settimane della vicenda delle protesi al seno, insomma i dubbi, i cosiddetti PIP e il caso che ha appunto suscitato enorme preoccupazione tra 400, pensate, 1000 donne che hanno protesi mammarie di questa società francese. Bene, in un articolo, reportage a cura di Paolo Crecchi si racconta un'ipotesi, in questo caso potremmo dire di nuovo dalla parte degli sconfitti. Secondo i familiari, la moglie, il figlio di Jean-Claude Mas, che è appunto, come forse ricordate, il titolare della fabbrica, c'è il dubbio. Dice, eravamo i terzi produttori al mondo di protesi mammarie, la società fondata nell'81 non ha mai avuto problemi, all'improvviso scoprono un silicone non conforme. Nicolà dice, la PIP ha sempre utilizzato due gel di silicone, uno, il Nusil, è un prodotto americano che ha avuto il via libera dalle autorità francesi, l'altro è un nostro brevetto scoperto quando non ci volevano autorizzazioni, ma che è sempre stato super controllato. Da chi, gli chiede, e Nicolà a quel punto preferisce non rispondere. L'avvocato di famiglia Ivadad dice, dalla TUV, una stimatissima società tedesca, naturalmente si trattava di controlli periodici che sono continuati negli anni. Insomma c'è un interrogativo dalla parte di chi ora è sotto accusa, sotto osservazione, e a questo proposito lo ricordiamo, abbiamo avuto il ministro della sanità che qui in onda a 24 mattina ha raccontato come in questi giorni e dentro la metà di questo mese sarà completato il monitoraggio, ribadendo peraltro che non esiste un pericolo acclarato per la salute appunto delle donne che hanno utilizzato questa protesi. Tutt'altro tema, tutt'altre donne, ma forse un corollario, una conclusione a questa giornata in cui abbiamo citato tante volte Cortina, il reality delle ricche che fa storcere il naso al Brasile delle favelas, vita e decessi di 5 milionari. Ecco, il Brasile, grande paese, grande emergente ormai da un pezzo, che quest'anno diciamo ha chiuso il 2011 piazzandosi al quinto posto nei paesi del mondo per PIL, è anche il luogo dove uno show televisivo è il segnale dell'emergere di una nuova classe ultra benestante, sospinta appunto dal boom economico. Ma questo show televisivo, come dire, lascia perplessi. Si chiama Mujeres Ricas, donne ricche, tra case lussuose a Rio e San Paolo, lo shopping a Parigi Saint-Tropez. La Marchiori, che è la presentatrice, viene ripresa mentre sta valutando l'acquisto di un jet con le rifiniture d'oro. Il dubbio già si insinua tra i telespettatori: cosa ci sarà mai da mostrare dopo la prima puntata, visto che le protagoniste non hanno un bel nulla da fare e poco da dire dalla mattina alla sera? E riusciranno a tirar fuori qualcosa di divertente dopo l'esordio a base di champagne, personal coiffeur e filosofia spicciola dell'opulenza? Ha esordito lunedì con un audience appena decente l'ultimo programma della serie reality show in Brasile. 5 donne di mezza età esageratamente ricche mostrano la loro esistenza davanti alle telecamere. Tutto questo accade in Brasile. 24 mattino. Per fare queste cose. Un attimo fa mi chiedevano dalla regia, stiamo cercando, ve l'abbiamo anticipato, di aprire un collegamento con un luogo remoto, con uno degli angoli davvero più maestosi e anche pericolosi del nostro pianeta, un amico storico di Radio 24, Simone Moro, alpinista bergamasco, l'uomo degli 8000, ma soprattutto negli ultimi anni degli 8000 invernali, ne ha già scalati 3, quindi nelle stagioni più dure, anche se appunto stiamo parlando di luoghi che sono complessi tecnicamente e estremi tutto l'anno. Ecco, no, gli alpinisti in realtà vivono attraverso le sponsorizzazioni, attraverso le conferenze, attraverso il lavoro di esplorazione, ma soprattutto vivono per alimentare le loro passioni, e Simone Moro sicuramente è uno di questi, un buon esempio. Allora, quando riusciremo a collegarci, spero naturalmente di poterlo fare nei prossimi 40 minuti, sentiremo come vanno le cose tra appunto nell'estremo occidentale dell'Himalaya, anche se il Nanga Parbat è una montagna isolata dal resto della catena. Ma adesso ho altre due ospiti da salutare per parlare invece di nuovo di lavoro, di occupazione nelle varie declinazioni che stiamo affrontando in questi giorni. Ieri con gli onorevoli Borghieri e Cazzola abbiamo parlato di assistenti parlamentari. Se avete sentito, uno degli elementi più scandalosi, diciamolo pure, della vicenda complessiva del tema dei costi della politica è il lavoro nero che viene prodotto rispetto appunto agli assistenti. Solo il 15%, ci dicevano proprio gli onorevoli, sono in regola, e questo è un aspetto assolutamente da affrontare, intanto da comunicare, e quindi rapidamente speriamo da affrontare. C'è un'altra vicenda che emerge in questi giorni che colpisce, che è quello delle dimissioni in bianco. Ecco, dimissioni in bianco che riguardano migliaia di donne in Italia e che questa mattina cerchiamo di approfondire, capire appunto come affrontarlo. Adesso mi fanno un gran segno dalla regia, forse abbiamo un collegamento con la nostra. Allora chiedo a Serena Sorrentino, l'anticipo intanto, segretaria confederale della CGIL, e alla professoressa Profeta di avere pazienza. Spero che amate la montagna. Ci spostiamo allora qualche minuto in Pakistan, dove raggiungiamo, come ho detto, il nostro amico Simone Moro. Simone, innanzitutto buongiorno. Allora, come capita nei nostri collegamenti, ti chiedo subito di raccontarci la tua vista di questa mattina. Allora, stamattina il tempo non è bellissimo, ci sono un po' di nubi, riesco a capire che sopra i 6500 metri c'è sereno, perché vedo un piccolo buco che mi permette di vedere una spalla del Nanga Parbat. Stanotte la temperatura è scesa intorno ai meno 21, comunque niente eccezionale, era previsto, e stamattina siamo andati a fare una ricognizione alla base della parete. Siamo stati fortunati perché c'è neve, ma ci ricordavamo ancora quando eravamo stati qui 8 anni fa, quindi abbiamo trovato subito il percorso e siamo arrivati a un'ora già da campo 1, dove poi cominciava tutta una serie di crepacci e seracchi. Abbiamo deciso di fermarci lì e tornare indietro, anche perché non avevamo preso tutta l'attrezzatura, non pensavamo di riuscire ad andare già così bene, così in alto. Ecco, come spesso accade con Simone Moro, poi i tempi si accelerano in maniera rapidissima. Raccontaci allora questa nuova sfida. Ho detto che nel corso degli ultimi anni, insomma, ti sei specializzato negli 8000 che frequenti da molti anni, ma in versione invernale. Perché? E perché questo colosso che appunto risponde al nome di Nanga Parbat? Ma l'alpinismo invernale sulle montagne di 8000 metri non è ancora stato scritto tutto, cosa che invece per gli 8000 metri che abbiamo gli estivi o primaverili la cosa è già fatta. Messner è stato il primo a scalare tutti i 14-8000, oggi sono 27 le persone che hanno collezionato tutti i 14-8000, però per assurdo ce ne sono ancora 4 che aspettano di essere saliti in inverno. Gli ultimi 3 che li ho saliti io, e adesso ne mancano questi 4, uno è Nanga Parbat, l'altro è Gashamrum 1, Broad Peak e K2. Il perché sta nel legame con la parola esplorazione. Se è vero che magari fisicamente non è più necessario esplorare, perché basta sedersi davanti a un computer e in Google Earth si può arrivare in qualsiasi angolo del pianeta, è però un'esplorazione senza i sensi, senza il tatto, non è un'esplorazione epidermica. In più questa è anche un'esplorazione nostra personale, perché fino al 2005, quando riuscii insieme a un polacco a riprendere questa storia, chiamiamola così, di scalate sugli 8000 metri, erano 17 anni che nessuno riusciva più, e quindi anche questa esplorazione personale dei limiti umani ci sembrava fermata. Insomma, sembravamo diventati troppo deboli per continuare a fare quello che una generazione fa si riusciva a fare. Adesso, grazie a Dio, insieme anche ai miei compagni, perché non sono solo io, le ultime 3 esplorazioni verticali sugli 8000 d'inverno ho avuto la fortuna e la capacità di esserci: 2005 Shishapagma, 2009 Makalu, 2011 Gashamrum 2 e adesso Nanga Parbat. Nanga Parbat è un bel bestione. Ecco, un bel bestione che tu hai descritto nei tuoi blog di un sinistro colore verdognolo. Ora, il verde per noi è un'associazione all'erba, ma qui è tutta un'altra questione. Sì, speravo di trovare un po' più coperto di neve la montagna. Diciamo che la neve non scarseggia solo sulle Alpi, ma adesso scarseggia anche qua. E questo cosa significa? Che rimane ciò che costituisce secoli di ghiaccio e di montagna, quindi ghiaccio vivo, non è più coperto dalla neve. E questo rende tutto più difficile tecnicamente. Salire un pendio innevato non si può fare camminando. Salire lo stesso pendio con la stessa inclinazione, ma di ghiaccio verde, bisogna usare piccoli serramponi ed è vietato scivolare. Se scivoli sulla neve fai mezzo metro, se scivoli sul ghiaccio è meglio non scivolare, insomma. E avere 4000 metri di dislivello coperti soprattutto da questo tipo di ghiaccio, ecco, tecnicamente complica molto la cosa. Forse è un po' più sicuro da un punto di vista delle valanghe, anche se qui su queste grandi montagne, quando le valanghe cadono, non sono i classici distaccamenti spontanei, sono seracchi che cadono. Sono pezzi di montagna che vengono giù, tra l'altro, insomma, Simone Moro sa bene di cosa parla, lui, come dire, elegantemente non si cita, ma chi conosce le sue esperienze, anche la sua storia sull'Annapurna, quando si dice di interi pezzi di montagna che si staccano, insomma, parla di qualcosa di molto specifico. Simone, prima naturalmente di darci appuntamento ai prossimi giorni per seguire insieme questa tua nuova avventura, so che una delle differenze fondamentali dell'arrampicata invernale sono le temperature, non che lassù faccia di solito caldo, però il vento, le condizioni appunto dell'inverno possono diventare proibitive persino per alpinisti professionisti. Sì, decisamente, il problema non è trovare tanto un giorno di freddo, un giorno invernale, che puoi trovarlo anche a maggio sull'Everest o ad agosto sul K2. Il problema è vivere due mesi o tre mesi con temperature che, come adesso mentre vi sto parlando, è meno 15, è la più calda, e la più fredda arriverà a meno 55. Fare tutto in questo range di temperature, vivere due mesi, lavarsi, andare in bagno, cucinare, scaldarsi, è questa la grandissima difficoltà. Se poi ci si mette, come sempre ci si mette, il jet stream, cioè il vento fortissimo, è chiaro che la percezione del freddo sul corpo aumenta in via esponenziale, e questa è la grande, grande difficoltà dell'inverno. Non per ultimo è che regala una o due finestre di bel tempo, non di più, e quindi con una o due finestre di bel tempo, magari che durano 36-48 ore, pensare di scalare un bescone come Nanga Parbat o come le altre montagne che abbiamo citato prima è una bella impresa. Simone Moro, in bocca al lupo, un saluto da tutti noi, dagli ascoltatori di Radio 24 che, come sai, ti seguono da anni in queste formidabili avventura, naturalmente. Sì, lo so. Ti voglio dire una cosa, ti rubo due secondi. Prego. Come ho fatto a capire che stavo usando il telefono satellitare sbagliato? Stavo ascoltando Radio 24 via satellite dentro il campo base, e quando ho sentito che mi stavate cercando ho capito che il telefono che avevo in mano aveva un'altra SIM, e sono corso a accendere l'altro. Questa è la tecnologia via satellite. Fantastico, Simone, sembra che l'abbiamo preparato, ma direi che la passione si sente questa mattina parecchio. Grazie davvero, un grande abbraccio, e naturalmente continueremo a seguire, come facciamo di fatto da anni, questo straordinario alpinista italiano. Lo ricordo, Simone Moro è di Bergamo, classe 67, oltre a essere, come avete sentito, uno splendido alpinista e anche un grande appassionato di tecnologie, e questo vi permette anche di seguirlo attraverso il suo blog. 24 mattino. 8:32 minuti, ancora un saluto da Gigi Donelli, da Alessandro Longoni in assistenza questa mattina, da Peter Bescapè. Dunque, Serena Sorrentino, segretaria confederale CGIL, buongiorno. Buongiorno. Paola Profeta, docente associato, Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, Profeta, innanzitutto le chiedo di farci una sintesi. Dimissione in bianco, che cosa significa? Ma allora, significa che nel momento dell'assunzione le persone assunte possono devono firmare delle dimissioni senza la data, quindi in bianco, e che poi possono essere utilizzate dall'azienda nel momento in cui decidesse appunto di licenziarle. Ecco, secondo il Sole 24 Ore si tratta di una pratica tutt'altro che marginale, se è vero, scrive nell'articolo appunto il collega del Sole, che tra il 2008 e il 2009 ben 800.000 donne hanno mollato in maniera più o meno volontaria il proprio lavoro per motivi legati alla maternità. Innanzitutto è una questione, diciamo, anche di genere, oltre che appunto di... Quindi le donne. Sì, infatti è una questione che riguarda principalmente le donne, perché è un mezzo che viene utilizzato in particolare dopo la maternità per licenziare le donne, soprattutto dalle aziende in crisi o dalle aziende piccole, di piccole dimensioni, perché la donna in seguito della maternità viene considerata comunque un costo esagerato, diciamo, per l'azienda stessa, e quindi è un fenomeno che riguarda principalmente le donne. Si stima che sia uno dei fenomeni principali in base al quale le donne lasciano il lavoro a seguito della maternità, quindi un abbandono del lavoro che è sostanzialmente involontario. Ecco, dal punto di vista territoriale e anagrafico è un fenomeno fenomeno che appunto colpisce in maniera diffusa attraverso la penisola e le fasce d'età, o ci sono, diciamo, delle zone particolarmente acute, gravi? In particolare, diciamo che colpisce soprattutto le più giovani, soprattutto le donne con quindi un'anzianità anche di servizio più bassa. Devo dire che da un certo punto di vista questo è un fenomeno, diciamo, importante, facilmente risolvibile, diciamo così, perché comunque si tratta di proibire da un punto di vista legale la possibilità di avere questo tipo di fenomeno, ma la cosa più importante è che è specchio di quella che poi è la situazione delle donne nel mondo del lavoro, che noi sappiamo le donne sono in Italia, lavorano poco, abbiamo un tasso di occupazione femminile che è il più basso in tutta Europa, facciamo eccezione soltanto per Malta, circa meno di una donna su due in Italia lavora, e questo fenomeno è particolarmente importante soprattutto a livello territoriale nel sud, perché se è vero che il tasso di occupazione femminile è circa il 46%, come media nazionale al sud scende al 30%, quindi questo fenomeno anche delle dimissioni in bianco, al quale si lega una accentuazione del problema dell'occupazione femminile, cioè del basso tasso di occupazione femminile, chiaramente diventa particolarmente rilevante nelle aree meno sviluppate del nostro paese, o comunque nelle aree in particolare del sud, nel quale i tassi di occupazione femminile sono particolarmente critici. Ecco, nel 2007 il governo Prodi varò una legge che serviva a arginare questa pratica illegale, poi dopo, un anno dopo, col governo Berlusconi, la 188/2007 venne cancellata. Ecco, professoressa Profeta, allora sembra che qui siamo veramente al tiro al bersaglio, cioè giovani, donne del sud, come parafrasando una nota pubblicità, insomma, sembra che ai cattivi a volte piace vincere facile, ma come può essere che una norma così evidentemente, come dire, da eliminata, risorga e rappresenti oggi ancora un problema così forte? Infatti questo come possa essere non lo sappiamo, nel senso che dipende da quello che è successo nel processo politico. È chiaro che come ha detto giustamente il ministro Fornero, è una situazione che deve stare prioritariamente all'attenzione del governo e che può essere e che deve essere eliminata. Teniamo presente che appunto non solo è come diceva lei un bersaglio facile, ma in realtà dal punto di vista proprio di ledere i diritti delle donne lavoratrici, in particolare le più giovani, in particolare nelle aree svantaggiate del paese, eccetera, ma in realtà è una questione che alla fine si ritorce contro tutti quanti, perché non dobbiamo dimenticare che in realtà il lavoro femminile non è soltanto una questione di diritti appunto per le donne stesse, che chiaramente sono da tutelare e che esistono i mezzi giuridici per farlo e che quindi vanno utilizzati e messi a punto, ma è una questione di benessere per le famiglie e per l'intero paese, cioè mettere in discussione il lavoro femminile, in particolare delle madri, in particolare in questo momento per le giovani coppie e in particolare nelle aree meno sviluppate del nostro paese, significa mettere in discussione la qualità di vita di queste famiglie e alla fine il benessere dell'intero paese. Chiaro, perché si fa un gran parlare ovviamente di sviluppo, giustamente, legittimamente, esatto. Se è questo, ma insomma, come siamo un po' alle basi dell'economia, delle lezioni universitarie di economia, insomma, se non si sviluppa metà della nazione professionalmente è ben difficile che questo possa poi portare un beneficio per tutti, donne ma anche extracomunitari, come ci scrive peraltro, come tra i messaggi dei nostri ascoltatori. Professoressa Profeta, riguarda sì, una cosa. Sì, cioè, detto, per gli extracomunitari diciamo che il discorso è ancora è un po' più ampio, perché c'è proprio un problema di tutela della maternità. Comunque sicuramente siamo all'interno dello stesso tema. Diciamo che noi in generale le fasce più deboli sono sempre le stesse, quindi questi tipi di fenomeni vanno ad incidere sulle donne, sui giovani, sugli extracomunitari. È chiaro che una tutela tutela in questa direzione deve essere una tutela complessiva, cioè deve essere comunque un modo di evitare questo tipo di fenomeni a 360 gradi. Ecco, profeta, una domanda su questo tema: c'è davvero una posizione, diciamo, particolare dell'Italia? Voglio dire, i nostri vicini europei mostrano situazioni analoghe o come spesso ci capita di rappresentare sul fronte del lavoro femminile e anche di quei meccanismi di tutela sociale, perché insomma qui non è più il tempo del femminismo degli anni 70, dell'affermazione dei diritti, ma poi di poterli applicare. Ecco, siamo davvero indietro a suo avviso? Purtroppo siamo particolarmente indietro rispetto agli altri paesi, infatti i dati parlano chiaro, siamo indietro proprio soprattutto non tanto dal punto di vista poi di quella che è la tutela dei congedi di maternità eccetera, ma siamo invece indietro su quella che proprio è la cultura e l'atteggiamento nei confronti del lavoro femminile, che appunto in particolare in presenza della maternità viene considerato un costo ancora molto pesante dal punto di vista delle aziende, invece che una opportunità per valorizzare il talento femminile, per investire sulle donne che ormai sono sempre più produttive, quindi in un momento come questo in particolare bisognerebbe puntare sulla produttività femminile. Il costo viene tra l'altro come dire sottolineato anche da alcuni dei nostri SMS. Alcuni chiedono: c'è un problema, chi paga, c'è un costo, c'è ancora una enorme resistenza nel come dire riconoscere la condivisione di un costo sociale. Ovvio che c'è un costo, ma come dire, all'interno di una famiglia, di una struttura, i costi appunto li possono pagare tutti e condividerli. Da un punto di vista poi diretto, il costo proprio vero e proprio che si associa ad una maternità è comunque basso per l'azienda, in quanto comunque viene coperto dal sistema previdenziale, quindi non è direttamente a carico dell'azienda. Quello a cui si fa riferimento in particolare nel caso di imprese di piccola dimensione è il costo legato proprio alla riorganizzazione e quindi alla gestione, però da questo punto di vista è chiaro che c'è molta strada da fare proprio all'interno dei sistemi organizzativi e gestionali di un'impresa, per cui una maternità dovrebbe essere gestita come un qualsiasi altro evento che riguarda l'impresa. Teniamo presente che l'Italia in questo momento è anche un paese in cui il tasso di fecondità è molto basso, quindi comunque teniamo presente che tutto questo quadro di cui stiamo parlando è comunque all'interno di un paese in cui i bambini che nascono sono molto pochi. Certo, in cui magari i costi che abbiamo citato sono investimenti anche sociali di lungo periodo. Da Roma un'ascoltatrice, chiedo scusa a Paola Profeta e Serena Sorrentino, torniamo immediatamente da loro. Loredana, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Ci dica, buongiorno. Io desidero semplicemente parlare della mia esperienza. Io sono responsabile per una multinazionale di una vasta area d'Italia e sono passata da una multinazionale all'altra, avevo un'esperienza ventennale ormai. E pur rimanendo, essendo assolutamente d'accordo col fatto che la maternità va tutelata, eccetera, la mia esperienza in più di 20 anni è di, tra l'altro, in un'azienda con una preponderanza di presenza femminile, perché c'è un rapporto col pubblico, eccetera, per cui questo l'elemento è assolutamente presente. Io ho avuto tutte maternità a rischio. Addirittura ho avuto persone messe in maternità prima del primo mese. In 20 anni è una. È un problema per l'azienda, perché è impossibile che siano state tutte a rischio. Oltretutto, siccome ora non mettono le maternità a rischio facilmente, si mettono in malattia e impediscono la sostituzione di maternità. Quindi questo, e io sono una donna, ho avuto dei figli lavorando, eccetera, questo comunque è un elemento, non parla mai nessuno di questa cosa. Lo sta facendo Loredana, anzi la ringrazio, sì, perché è l'atteggiamento purtroppo di molte donne che mette... praticamente tira giù tutto il lavoro fatto dalle altre. Grazie a Loredana, direi un punto chiarissimo. Allora chiederei a Serena Sorrentino, questo come diceva la nostra ascoltatrice non ne parla nessuno, ma in realtà non mi è proprio nuovo questo discorso e credo che almeno qui se ne sia parlato. Lei è un problema reale, Sorrentino, lei cosa ne pensa di questo intervento? Sicuramente se l'ascoltatrice che ha parlato prima ha fatto questa testimonianza, avrà verificato nella sua esperienza che c'è una certa ripetitività. Sì, non arriva solo da questo caso, insomma. Però, c'è... Prego. Diciamo che i dati dimostrano due cose che vanno analizzate nel contempo e che un po' ricollegano anche all'intervento della professoressa prima. Prima di tutto le maternità nel nostro paese sono ritardate perché è ritardato l'ingresso nel mondo del lavoro, soprattutto è ritardata la possibilità di avere un reddito tra virgolette stabilizzato che consente anche di programmare la maternità. Questo alza il livello e la soglia di rischio della maternità e il rischio di salute per la donna, il che aumenta in percentuale l'esercizio della gravidanza a rischio. Dall'altra però, statisticamente sui grandi numeri, se noi andiamo a rapportare le dimissioni volontarie con l'esercizio della gravidanza a rischio, non c'è assolutamente paragone, sono infinitesimali i rapporti percentuali tra coloro che esercitano il diritto alla malattia o alla gravidanza a rischio e coloro i quali invece sono costrette alle dimissioni volontarie durante o a termine della gravidanza. No, no, ma infatti è chiaro che una cosa non è che esclude l'altra, non rende, non depotenzia l'opposizione, peraltro che la nostra ascoltatrice ha esplicitato in maniera molto chiara. Quello che chiaramente io toccavo un altro elemento, che è quello del lavoro femminile, che è quello di un aspetto che non, appunto, non solo questa mattina viene sollevato. Per questi aggiornamenti, allora subito gli ascoltatori, cominciamo da Roma. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Prego, ci dica. Io per lavoro seguo i call center dove c'è molto lavoro femminile e quindi volevo testimoniare che nelle realtà con più di 15 lavoratori, dove comunque c'è tutta la tutela, ci sono anche aziende che magari danno anche un'integrazione al reddito alle donne che vanno in maternità. Volevo sottolineare che al ritorno dalla maternità spesso e volentieri, forse per un retaggio culturale, non so perché, le addette ad una mansione molto spesso vengono adibite a una mansione di natura inferiore, come se al ritorno dalla maternità bisognasse, come dire, un po' ricominciare da capo. Da capo. Grazie a Stefano per questa testimonianza. Sergio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo testimoniare il fatto che qui in Brianza uno degli studi di commercialisti più importanti, che ha credo una ventina di persone impiegate, il 99,99% è costituito da donne, per una questione, per una mentalità, diciamo così, del proprietario, il quale ritiene che a suo avviso il lavoro femminile è più... e di qualità migliore, più elevata. E per quanto ne so io, questo gruppo di persone sta benissimo, nel senso che non hanno mai avuto problemi, diciamo così, di discriminazione. E questo ovviamente ci fa piacere, non pensiamo che sia una questione così, come dire, diffusa, sì, ma il problema non deve appunto riguardare tutti, ci sono sicuramente molti casi positivi. Claudia da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Ci dica, Claudia, buongiorno. Io testimonio il fatto, sono titolare di un ristorante. Mi rendo conto effettivamente che, come dicevo alla centralinista, tante volte non è che manca il lavoro, manca proprio la voglia di lavorare. È questo, perché io titolare pulisco i bagni, mi faccio le pulizie al banco, tante cose che se chiedo magari a una dipendente, un po' schifata ovviamente, poi magari il giorno dopo mi sta in malattia per non fare queste mansioni. Ecco, tutto qui. Grazie Claudia, buongiorno, grazie di essere stato con noi. Paola Profeta, dunque, il tema, come ha sentito anche attraverso gli interventi dei nostri ascoltatori, cioè mette in luce un altro elemento, che è quell'elemento sociale, quell'elemento legato al costo, alla preoccupazione della maternità. Sembra un binomio da cui non riusciamo a liberarci. Lei cosa ne pensa? Ovviamente questo nell'aspetto culturale, sociale, sono molto importanti, in particolare sul nostro paese, come testimoniano molti studi, è proprio una caratteristica del nostro paese, sia la divisione comunque all'interno della coppia molto sbilanciata, per cui è la donna quella che ha il problema della maternità, eccetera, e sia queste aspettative delle imprese, per cui nel momento in cui la donna ha un figlio, proprio perché anticipano che è lei quella che deve gestire la cura cura, la responsabilità, allora hanno questa aspettativa che la donna si dedicherà meno, si impegnerà meno, e quindi o le pongono in mansioni inferiori, come diceva quella persona, uno degli ascoltatori, sì, oppure le pagano di meno, bloccano le loro carriere. A questo punto però si crea un circolo vizioso per cui sarà davvero conveniente per la donna dedicarsi di più alla cura del bambino, alla casa eccetera, e invece per l'uomo dedicarsi di più al lavoro o nell'azienda o nel mercato. Quindi è come se queste aspettative in qualche modo si autorealizzano e non usciamo più da questo circolo. È anche vero che però quello che testimoniavano gli ascoltatori prima è un po' l'idea che quando si crea un ambiente positivo all'interno dell'azienda, per cui comunque vengono apprezzate le qualità, l'impegno, lo sforzo eccetera delle donne, e sia dal punto di vista dell'azienda, e allo stesso tempo la donna si sente comunque riconosciuta o in grado di avere una prospettiva di carriera, di realizzazione e di valorizzazione del proprio talento, del proprio impegno, ecco, quando si riesce a creare questo connubio, questo aspetto positivo, allora il problema sia dell'abbandono dopo la maternità e sia tutti gli altri problemi legati appunto un po' a quello che si diceva, la volontà, l'impegno eccetera, diventano inferiori. Cioè il problema è proprio creare un contesto positivo all'interno dell'azienda, nella logica della gestione, dell'organizzazione, nel quale sia l'azienda e sia la donna si sentano reciprocamente valorizzati nel loro impegno. Ecco, a proposito dell'azione reazione, come scrivono peraltro anche in molti sms, il tema che abbiamo toccato un momento fa, cioè le dimissioni volontarie, sintetizza una nostra ascoltatrice, sono la diretta conseguenza dell'abuso della gravidanza a rischio. Lei cosa ne pensa? Io penso che questo è difficile da dire, perché non è difficile capire qual è la causa e qual è l'effetto. Però c'è un problema di questo tipo? C'è un problema di questo tipo, ma non possiamo dire che uno è causa dell'altro, cioè potrebbe essere tranquillamente anche il contrario. Cioè è chiaro, ah, certo, che può essere anche per la gravidanza a rischio, se io so che dipende dal fatto che comunque non ci sono prospettive di carriera, che comunque le donne hanno sempre lavori di qualità inferiore, la mancanza di tutela sociale eccetera, dice potrebbe essere un innesco per questo tipo di approccio. È molto difficile fare, cioè poi soprattutto per noi economisti, insomma, parlare di relazione di causa-effetto con questa semplicità è chiaramente molto pericoloso. Assolutamente. Serena Sorrentino, torniamo per cortesia diciamo sul campo. Nel corso della sua esperienza appunto sindacale, questo tipo di problematica è resa particolarmente acuta in questa fase di crisi, immaginiamo. Quella delle dimissioni in bianco? Sì, quella delle dimissioni in bianco, ma insomma che lega tutto il discorso dell'occupazione femminile. Sì, veniva già ricordato prima, noi abbiamo un tasso di occupazione abbondantemente al di sotto della media europea, anche di quelli che tra virgolette erano gli obiettivi fissati dall'agenda di Lisbona 2020, siamo al 46,4 a fronte di un obiettivo del 60%, e nella crisi in maniera più acuta noi abbiamo avuto un'espulsione, un abbandono da parte in particolare delle donne del mercato del lavoro, perché sono tra i soggetti insieme a lavoratori precari più esposti e più fragili, e oltretutto non rappresentano quasi mai il reddito prevalente familiare. In più c'è il tema del subentro della gravidanza, che pone una serie di questioni. È stato già accennato al fatto che diventa una complicazione per l'azienda l'organizzazione del lavoro a fronte dell'assenza di un'unità lavorativa, ma ci sono una serie di fattori di contesto che in qualche modo obbligano quasi, tra virgolette, la lavoratrice alle dimissioni. Quali sono questi fattori di contesto? Non soltanto l'elemento di ricattabilità da parte dell'azienda, che chiaramente trova una convenienza nel far dimettere la lavoratrice alla quale subentra la maternità, piuttosto che doversi far carico di una nuova organizzazione del lavoro e poi del rientro progressivo della lavoratrice, in più con tutti gli elementi che il rientro da una maternità comporta, quindi i permessi, gli orari, la conciliazione eccetera. I fattori di contesto sui quali anche avevamo provato a intervenire con il governo precedente, facendo un avviso comune sottoscritto da tutte le parti sociali, compreso il governo, che però non ha avuto alcuna applicazione, e non ho avuto alcuna applicazione proprio per un punto di criticità che riguarda il nostro paese rispetto alla tutela della maternità, non tanto in ambito normativo, perché noi abbiamo la legge 53 che da questo punto di vista anche rispetto alla normativa europea è una norma abbastanza avanzata. Il tema della conciliazione tra lavoro e famiglia nel nostro paese ha un grande vulnus, che è quello dell'organizzazione dei servizi. Non parliamo soltanto della distribuzione degli asili nido sul territorio, non è soltanto il tema dell'offerta degli asili nido pubblici e privati, ma è anche proprio come sono organizzati i servizi. Faccio un esempio su tutti: i regolamenti comunali non sono uniformati a livello nazionale. Se io ho un asilo nido pubblico che mi apre dalle 8 alle 13, se anche avessi la possibilità di collocare il bambino al nido pubblico, chiaramente avrei problemi sull'attività di conciliazione tra quelli che sono i miei orari di lavoro e quelli che sono gli orari offerti dal nido pubblico. Allora cosa faccio? Mi rivolgo all'offerta privata. In quel caso io ho un onere, un carico economico difficile da sostenere. La media delle rette degli asili nido sfiora circa i 600 euro mensili. Chiaramente questo pone una discriminazione sia in termini di possibilità economica, dall'altro anche in termini proprio di accessibilità e di fruibilità di questi servizi. È chiaro, ecco. Tema degli orari di lavoro. Gli orari, ecco, sembra che tutte le strade in questo caso per le donne giovani italiane, come abbiamo detto, ancor peggio se del sud, portino a casa, portino lontano dal luogo di lavoro. Un'idea da cui ripartire, Serena Sorrentino? Pronto? Come dire, un'idea in conclusione da cui ripartire, quindi priorità per cercare di smontare questo circolo vizioso? Allora, intanto per favorire l'occupazione femminile bisogna anche fare quel salto di culturale a cui si accennava prima, in cui il tema della riproduzione non è un carico o una questione di genere. Quindi prima cosa, rendere obbligatoria nel nostro paese, così come prevede anche la direttiva europea sui congedi parentali, l'obbligatorietà del congedo di paternità. Quindi un periodo del congedo deve essere obbligatoriamente esercitato anche dal padre. Quindi non solo femminile, non solo della mamma, ovviamente. E questo in qualche modo potrebbe intervenire anche nel modificare l'approccio che le aziende hanno rispetto alla maternità e in questo caso alla paternità, quindi non più solo conciliazione ma anche condivisione. Insomma, un primo punto, e io ringrazio Serena Sorrentino, è quello del congedo di paternità per le donne ma anche per gli uomini. Grazie, siamo in conclusione, grazie a Paola Profeta, Serena Sorrentino, ai nostri ascoltatori e grazie a tutti voi naturalmente. GR24 tra qualche momento, noi ci risentiamo domani mattina.